Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, caro Oscar, sono le 8:20 minuti in punto. Buongiorno e buona settimana. Eccoci qua. Allora, come andiamo? Tu benissimo, vi ho sentito con Meazza, quindi vi date solo le legnate. Poi domenica. È veramente una guerra tra poveri. Poi alle 12:30 piangerete tutti. Nel prossimo, esatto. 12:30, cioè, capisci? Sabato prossimo. Insomma, sono quelle della Serie B. Quelle sì, esatto, il pranzo pasquale. Mi pare di capire che insomma sia abbastanza chiaro qual è il significato. Comunque, detto questo, certo, voglio dire, che cosa non farebbe Berlusconi per far capire che voleva essere come gli agnelli, cioè questa cosa di salvare gli agnelli, soldi, perché lui ha detto il titolo, a quel punto ha capito che per avere quel titolo almeno una volta nella vita Berlusconi salva gli agnelli, doveva ridursi a questa baciare un agnello, sì, il biberon, perché gli mancava, sì. Questo titolo non sarebbe mai venuto altrimenti. Cioè, salvare la vita agli agnelli e ai capretti, in particolare Oscar, in questi giorni di Pasqua, no, è quello che chiediamo agli italiani, quello che no, ma quello che intendeva era salvare agli agnelli. Berlusconi salva gli agnelli, ma certo. Non è capitato né nel calcio né nella politica né nell'impresa. Comunque, vabbè, detto questo, abbiamo visto non anche questo. Non hai un cuore tenero, dai, non è, già dalle 6:30 ci stanno massacrando su questa cosa. Cuore tenero. Cuore tenero, tenerissimo. Ha trovato la maniera poetica. No, non ti sei commosso nella realtà. Quel titolo rispetto agli agnelli di Torino non gli sarebbe mai potuto venire nella vita, perché non c'è riuscito. E invece così, in una verde radura di Arcore, sì. Vedi che non hai il cuore tenero? Vedi che sei un cinico? Io? No, sì, sei un cinico. Berlusconi invece è tenerissimo, è l'uomo del cuore, per così dire. Va bene, va bene, va bene. Abbiamo visto anche questo, comunque, oltre Igor, il russo, il serbo. E devo dirti che andiamo ai santi, va, oggi tra i tanti santi che ci sono oggi, io scelgo Santa Maddalena di Canossa. Perché Santa Maddalena di Canossa? Perché non tanto per la famiglia a cui apparteneva, la nobilissima famiglia della contessa Matilde di Canossa, però stiamo parlando di una santa di inizio 800, perché in realtà marchesa, ricca, sposata con in famiglie nobili, eccetera, eccetera, alla fine dedicherà la vita a una missione che sente prorompente dentro di sé e a cui non resiste, cioè quella di fondare case di istruzione per ragazze e ragazzi poveri, che dal suo Veneto al Trentino, alla Lombardia, si diffonderanno in tutto il nord prima e poi dovunque, perché è la fondatrice appunto delle canossiane e dei laici canossiani che faranno dell'istruzione per chi ha meno uno degli impegni fondamentali della loro vita. Allora, è uno di quei santi, tra virgolette, sociali da ricordare, secondo me, sottolineando quattro volte, perché questa causa sociale è una maniera attraverso la quale la fede cambia la società, per così dire, e queste secondo me sono figure da ricordare, a maggior ragione se poi erano ricchi, nobili, potevano fare tutt'altro nella vita, e invece viva Santa Maddalena di Canossa. Cosa ricordare in questo giorno? Ricordo apposta, rinviando al bellissimo articolo oggi di Ferruccio De Bortoli sul Corriere dell'Economia, contro l'uscita dell'Italia dall'euro, e i pazzi che vi dicono che costa niente, che è l'Eden di salvezza di ogni problema italiano, ecco, contro queste fesserie Ferruccio De Bortoli scrive un fantastico articolo e raccogliendo opinioni di chi dice, ma insomma, i tanti che dicono il contrario, ma come fanno a dire, non si rendono conto delle attese che suscitano nella gente, quando invece sarebbero danni ingentissimi. E giusto per ricordare, oggi per esempio nel 1974, ai tempi della liretta che molti dipingono come l'Eden, il Fondo Monetario era costretto a darci un altro prestito straordinario di qualche miliarduccio di dollari, perché sennò l'Italia col cappello in mano non si reggeva in piedi, come avveniva ogni anno. Questa è la realtà che molti vi dipingono come il paradiso terrestre. Nel 1991 a Livorno, oggi, la strage terrificante, la più grave della marineria mercantile italiana, del traghetto Moby Prince, 140 vittime, non abbiamo mai saputo perché e per come. pazzesco, l'Italia è una cosa veramente incredibile. E nel 2006 oggi la vittoria per pochi voti, per un pugno di voti, della coalizione di Romano Prodi. Auguri oggi tra gli altri a Claudio Magris, grandissimo secondo me scrittore della, come devo dire, della Mitteleuropa italiana, ecco, sì, e poi a giornalisti come Aldo Grasso, mito, Luca Telese, e poi al presidente della CDP Claudio Costa Magna, oltre che a una grande imprenditrice della musica, oltre che grandissima cantante, Caterina Caselli, che mi è sempre stata nel cuore. Ecco, questo è più o meno quello che direi oggi. Da dove vogliamo partire? Vabbè, è chiaro che le immagini dell'Egitto sono immagini che sconvolgono, nel senso che vedere due chiese cristiane copte colpite in un giorno importante, la Domenica delle Palme, e la rivendicazione dell'ISIS rilancia insomma uno scenario internazionale che già ci ha regalato la vicenda dell'attacco in Siria. Siria. Ora l'America di Donald Trump che punta pare alla Corea del Nord. La Svezia. La Svezia, tra l'altro... No, c'era la famosa frase di Trump, sai che sono già nati tutti i complottisti, complottisti. Ce l'abbiamo da sentire. Quando Trump un mese e mezzo fa disse, no, la questione della Svezia, ricordando, facendo un errore, parlando di un presunto attentato in Svezia. Aveva, come si vede. Adesso tutte le persone pensano, no, che sapesse qualcosa. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden, who would believe this? Sweden. Vabbè, they took in large numbers. C'è anche questo nell'impazzimento generale, no? Di pensare che Donald Trump sapesse che stava per succedere qualcosa in No, in mi sembra più fondato continuare ad avere i dubbi in realtà su cosa è successo, su quelle armi chimiche, esatto, su chi e come ha convinto Trump a cambiare radicalmente idea rispetto a quello che ha detto per anni, e insomma su cosa ci aspetta adesso. Sottolineo su questo che però anche la giornata, secondo me, è più Luigi Battista oggi sempre sul Corriere a dire colpiscono dovunque, Stoccolma, Londra, Nizza, Parigi, Tel Aviv, perché è una guerra di religione. Ogni tanto dobbiamo ricordarlo, so che anche tu la pensi un po' così, so che è un tema, diciamo, no, è lo un sai tema che... molto spinoso. Diciamo che coloro che colpiscono, quelli lì, se vanno a colpire delle chiese durante la Domenica delle Palme, è chiaro che vogliono colpire. Ci ricordano che i martiri cristiani non sono robe di pagine, di storia remota, continuano a cadere anche oggi. No, ma certo, far finta che non ci sia una matrice religiosa in coloro che vanno a colpire in una chiesa vuol dire... non lo so, secondo me negare una cosa evidente come il sole sorge. Concordo. Poi da lì a dire che c'è una guerra dell'Islam contro di noi, no, questo no, ma quelli che agiscono così lo fanno perché è loro inculcata, perché una l'idea certa interpretazione religiosa. Inculcata è quella, e quindi è quella religiosa. Comunque con noi ci sono Sofia Ventura, che è docente di scienza della politica a Bologna. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Grazie. E Marcello Foa dirige il gruppo editoriale svizzero che comprende tra gli altri mezzi di informazione il Corriere del Ticino, anche un blog molto seguito, Il Cuore del Mondo. Buongiorno Marcello e grazie. Eccoci qua, buongiorno Alessandro. E tra l'altro Oscar, il buon Marcello Foa dice che Trump è stato normalizzato. È interessante questa teoria, cioè normalizzato in che senso, Marcello, se ce lo puoi spiegare, in questo suo intervento in Siria? Purtroppo quel che è successo è che Trump era arrivato al potere promettendo una nuova agenda di politica estera molto diversa rispetto a quella che hanno seguito con una linea di continuità notevole sia Bush sia Obama, e questo presupponeva un'America meno interventista, molto più guardinga prima di ipotizzare qualunque azione militare, e si era parlato infatti di un'America isolazionista, lo ricorderete tutti. Come no? Invece in questo periodo è successo che i suoi principali collaboratori sono stati o emarginati o estromessi, e che Trump ha letteralmente ribaltato la propria agenda di politica estera. Un esempio: in Siria il Trump di qualche mese fa avrebbe detto non credo alla versione ufficiale, pretendo un'immagine, un'inchiesta indipendente prima di prendere qualunque decisione. Infatti ricorderete, ci sono dei tweet che circolano su internet che ricordano come Trump biasimasse Obama per la frettolosità di alcune sue decisioni riguardanti la Siria. Il Trump di oggi è un Trump che non aspetta neanche un minuto prima di arrivare alle conclusioni, e che nel giro di qualche ora manda 59 missili sulla Siria. Conclusioni sulle quali tu hai dei dubbi, come molti che si chiedono come mai Assad avrebbe usato queste armi chimiche adesso. Anche tu poni dei dubbi nel tuo blog. Sì, io pongo dei dubbi, certo, assolutamente, ma il punto è che queste logiche, questo modo di comportarsi, anche la retorica che usa Trump è la stessa che lui rimproverava a Hillary Clinton, è come se Trump si fosse trasformato in Hillary Clinton, e questo è una svolta davvero notevolissima, molto sorprendente e a mio giudizio molto preoccupante, perché io devo dire che ho seguito con passione, preoccupazione, partecipazione la guerra al terrorismo, l'angoscia degli anni 2000 che ricordiamo tutti. Se però oggi facciamo un bilancio di questa guerra al terrorismo, dopo 16 anni ci accorgiamo che il terrorismo, anziché diminuire, è aumentato e ne paghiamo il prezzo tutti, come purtroppo vediamo ormai ogni giorno, ne avete parlato anche voi prima. Sì. Marcello, ma senti, tu per primo, di fronte ai caschi bianchi visti negli spezzoni mandati in onda a conferma del fatto che erano state usate aggressivi chimici in Siria per l'ennesima volta dopo il 2013, facevi sottolineare a chi osservava molte incongruenze, cioè, ma queste stesse facce, queste, insomma il dubbio forte è che al-Nusra, quindi il qaedismo anti alawita, anti Bashar al-Assad, avesse ordito una specie di grande trappola mediatica. Questo è quello che ho desunto leggendo le tue cose. Dall'altra, per giustificare i suoi 59 missili, tra l'altro 59 missili su quella base, non abbiamo alcun riscontro che siano arrivati 59 missili, cioè 59 missili su una pista a 1400 metri significa 30 tonnellate di alto esplosivo. Anche su questo ci sono molti dubbi, nel senso che sono veramente andate su quella pista 59 missili cruise, non lo sappiamo. Terza cosa però, il presidente Trump ha fatto scrivere ai giornali che gli Stati Uniti avrebbero, tra virgolette, visto sui radar l'azione dell'aviazione siriana, cioè che avrebbero, per così dire, le prove. Solo per questo, e questa sarebbe la risposta alla tua domanda, al tuo interrogativo, lui si sarebbe convinto che a quel punto loro sono i responsabili, Bashar al-Assad, e oltretutto sono responsabili i russi perché erano garanti di fronte alla comunità internazionale dell'avvenuto smantellamento di tutto quel che restava agli aggressivi chimici. Dov'è che secondo te questa tesi non regge? Su quest'ultimo passaggio hanno convinto Trump ad agire senza portargli le prove? Sì, assolutamente. Cioè, allora, il fatto che tu vedi degli aerei su dei radar non significa che quegli aerei abbiano sganciato delle bombe al sarin. E questo, dov'è la prova? Non c'è nessuna prova. E poi attenzione, io insegno anche all'università, nella mia università rispiego cosa è successo nel 2013. Nel 2013 montarono una campagna molto intensa in cui fonti sicure anche dei servizi segreti americani dichiaravano che 1300 persone, all'epoca furono uccise 1300 persone con il gas, erano state massacrate da Assad. Poi saltò fuori, fortunatamente Putin si oppose, e saltò fuori che ad usare il SAD erano state, il gas erano state i ribelli cosiddetti moderati. E allora il problema qual è? È che purtroppo, se noi andiamo a vedere anche la guerra in Iraq, tante altri interventi militari compiuti dagli Stati Uniti negli ultimi anni, risulta molto spesso che le prove adotte come sicure, certe e incontestabili, in realtà poi alla fine erano molto parziali, false o addirittura del tutto inventate. Sì. Allora il punto è che purtroppo quando è solo una fonte che ti dà una prova certa, tu ormai oggi certo, sì, va verificata. No, vorremmo anche coinvolgere un attimo la professoressa Ventura per capire sia sul fronte, insomma, Marcello Foci sta dicendo di un Trump normalizzato e che in qualche modo quindi è preoccupante perché è il Trump che non prosegue sulla linea che aveva annunciato in campagna elettorale, in campagna presidenziale. E Sofia Ventura, c'è anche la questione, se vogliamo allargare la questione dell'Egitto, noi, io e Oscar Giannino, abbiamo detto insomma che si può anche parlare di guerra di religione senza grandi paure, o dobbiamo evitare di affrontare questo tipo di argomento? Ma dunque sul caso Trump diciamo che adesso, al di là delle questioni che lo hanno portato a prendere quest'ultima decisione, però non meraviglia che eventualmente che abbia cambiato la sua posizione, non meraviglia per il profilo del leader che rappresenta, insomma. Cioè Trump direi che oscilla tra il modello pragmatico e il modello narcisista del leader, quindi evidentemente in questo caso qualcuno del suo entourage lo ha convinto che era opportuno per, non so se per gli Stati Uniti o per la sua immagine, per la sua presidenza, era opportuno fare quell'azione anche se in contrasto con le posizioni assunte fino a quel momento. E questo, diciamo, è un po' una cifra che contraddistingue la personalità di Donald Trump, ma devo dire sempre di più le leadership, purtroppo alcune leadership contemporanee, dove sostanzialmente si gioca molto sul momento, quindi è anche difficile trovare una coerenza nel tempo, perché in realtà la coerenza non è ricercata. Anche se però, Ventura, la scelta che ha fatto allontanando, voglio dire, Steve Bannon per esempio, mettendo e seguendo la linea del generale McMaster, il suo consigliere alla sicurezza nazionale, mettendo Flynn al Pentagono, cioè è una cerchia di militari che sono stati molto critici verso gli errori americani all'inizio dell'Iraq, lo hanno detto pubblicamente, hanno scritto pubblicamente, e però certo è un'altra scelta strategica, non casuale, quotidiana, rispetto alla linea Bannon, molto più ideologica, anti-Obama, gli errori di Obama sulle primavere arabe e così via. È proprio un'altra cosa, effettivamente è la successione del pensiero neocon, le critiche al pensiero neocon bushano, però effettivamente è tutt'altra cosa, cioè è come dire, meglio i tra virgolette professionisti piuttosto che gli ideologi, ecco, quindi mi sembra, non lo so se sia una cosa così quotidiana, è un altro Trump, è un altro Trump. Ecco. Nel senso che è stata decisa così, nulla, però quello che voglio dire è che appunto non c'è una coerenza di fondo per cui noi possiamo immaginarci di anche poter prevedere certe scelte. Cioè a un certo punto è stato convinto che comunque cambiare prospettiva potesse funzionare meglio, per una serie di motivi. Esatto, e quindi sbaragliare anche l'accusa di essere, insomma, troppo una marionetta di Putin, le indagini al congresso, eccetera, eccetera. Cioè, forse conta anche questo. Esatto, una serie di elementi. E questo per dire che poi possiamo aspettarci poi anche in prospettiva un altro cambiamento, insomma. Ma sulla componente religiosa invece che dice lei? No, sulla questione io non credo che ci sia una guerra di religione, nel senso che non credo che ci siano che ci sia una centrale in qualche modo islamica che ha dichiarato guerra all'Occidente, però è evidente che l'Islam, per quello che poi significa dire Islam, no? Che sappiamo benissimo che non essendoci un'autorità suprema può essere interpretato in modi diversi, lo stesso Corano può essere interpretato in modi diversi, però è evidente che funziona da collante ideologico, ma anche da motore ideologico, e funziona come tale per i gruppi dell'ISIS, per Al-Qaeda, per diverse organizzazioni, ma anche per singoli individui o piccole comunità sparse per l'Europa. Cioè, diciamo, un pretesto, un cappello che mettono su. Ma no, non è tanto un pretesto, è proprio un materiale esplosivo che serve, cioè che comunque funziona. Ecco, questo voglio dire, cioè per dire la piccola comunità dei quartieri delle città del Belgio che si sente frustrata per n motivi, trova, come nel passato si poteva trovare nel comunismo, un collante ideologico e anche un elemento, insomma, che è soddisfacente per portarlo all'azione, cioè perché effettivamente una certa interpretazione dell'Islam è assolutamente ideologica, cioè proprio propone i meccanismi dell'ideologia, no? La contrapposizione tra il bene e il male, è chiaro. Del nemico. Sono elementi molto interessanti dai quali vogliamo ripartire, però tra un attimo, perché dobbiamo andare un paio di minuti in pubblicità. Con Sofia Ventura, con Marcello Foa, con anche gli ascoltatori, non abbiamo dato il numero, Oscar, ma è sempre il solito 800240024. Si accettano anche Agnelli Belanzi. Dai, su, ma sei veramente un cinico, porcaccia miseria. Già l'ho fatto io prima questo ruolo, mi sono beccato gli insulti. Dai, state con noi. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, qua stiamo parlando di attualità internazionale, che però ci riguarda molto da vicino, perché poi si dice l'isolazionista Trump, poi dopo quando colpisce, colpisce anche i teatri del mondo, soprattutto quello della Siria, che poi stanno più vicini a noi, no, caro Oscar, che all'America dal punto di vista geografico. E quindi ci interessano molto. Ci sono gli ascoltatori. Michele ci chiama da Crotone. Oggi la dico Salve, così. Buongiorno, Crotone. Buongiorno. Michele Caruso da Crotone. Dottor Giannino, mi pregio di intervenire sulle frequenze di Radio 24. Io volevo così esprimere la mia opinione, come naturalmente è lecito che sia per l'articolo 21 della Costituzione, e vorrei fare un punto. Michele, secondo me Trump con i missili, questi raid che sono partiti, no, verso la Siria, sappiamo naturalmente cosa sta succedendo in quel territorio martoriato da ormai diverso tempo a questa parte, in qualche modo potrebbero essere i prodromi di un terzo conflitto mondiale. Cerco di spiegarmi bene, e dopo vorrei dire la fine della guerra fredda tra i due potenze USA e Unione Sovietica, no? Sono stati due blocchi ovest ed est. Sì. Adesso penso che l'Europa si unirà a Trump, come abbiamo visto, visto che la missione dell'ONU non è bastata, e quindi i paesi medio orientali invece alla Russia. È un germe dell'odio che diceva Rina Fallaci, naturalmente nelle sue radici dell'odio, di questa cultura. Abbiamo visto ieri, vorrei dire, che è avuto il suo apice con quell'esplosione del kamikaze che voleva fare una strage alla chiesa nordcoreana in Egitto, e ci è riuscito. Secondo me, perché in tutto il mondo c'è bisogno appunto di un altro conflitto, la terza guerra mondiale. Ok, Michele Caruso da Crotone, articolo 21 della Costituzione, grazie. Pensa che io, Marcello, volevo iniziare la puntata oggi dicendo: volevo tranquillizzare tutti, state sereni, non arriverà la terza guerra mondiale. Invece Michele da Crotone Michele da Crotone la pensa in modo diverso. Però Marcello, adesso c'è la Corea del Nord, insomma, aiutaci a capire che dobbiamo temere qualcosa, una progressione di questa situazione. Allora sì, ora senza parlare di terza guerra mondiale, cioè, che forse è esagerata, però purtroppo lo scenario internazionale è davvero molto preoccupante. Se alziamo un po' lo sguardo, io credo che lo scenario che noi dobbiamo seguire con più attenzione e che ci riguarda molto da vicino è quello russo. La domanda a cui non sempre si dà una risposta certa è: ma perché l'America è improvvisamente vuole regolare i conti con la Russia, cioè non gliene fa passare una. E perché? Ecco, e la ragione io la spiego in termini geostrategici, cioè l'America dagli anni 90 applica quello che è il piano Brzezinski. Brzezinski riteneva che per il futuro degli Stati Uniti il controllo dell'Eurasia, cioè di quella zona che parte praticamente dalla Spagna e che arriva fino alle porte della Cina, è fondamentale sia per questioni di sviluppo demografico sia per controllo delle risorse primarie, eccetera. Putin che cosa dunque significa? Che la Russia deve essere amica degli Stati Uniti. Cos'è successo? È che mentre Yeltsin era un uomo praticamente di Washington, come poi diverse inchieste hanno dimostrato, Putin, che all'inizio era molto favorevole a proseguire una collaborazione con gli Stati Uniti, nel corso degli anni si è reso conto, e soprattutto dopo il fatto, dopo le rivoluzioni colorate in Ucraina, in Kirghizistan, in Georgia, che degli americani non si poteva fidare. Da lì è iniziata un braccio di ferro con delle tensioni continue fino alla situazione di oggi. Quindi è un nuovo conflitto, diciamo, Stati Uniti-Russia, cioè per il controllo di questa fascia centrale del mondo, no? Beh, la Russia sta ferma, nel senso che la Russia sta ferma, è l'America che vuole controllare questa fascia del mondo. Il punto qual è? È che Trump, prima di questa svolta, secondo me, molto molto negativa, diceva: io voglio sedermi al tavolo con Putin perché con un uomo come Putin ci si può accordare. Era in ammirazione rispetto alla capacità di leadership di Putin. Ricordiamo anche oggi tutte le voci sulla possibile influenza russa sulla campagna presidenziale. Sì, ma quelle erano delle operazioni per impedire che un incontro tra Putin e Trump avvenisse. Il Trump di oggi è quello che, tramite il suo segretario di Stato, tramite l'ambasciatrice all'ONU, tramite i generali, accusa la Russia in maniera molto forte e praticamente non contempla più la possibilità a breve di un incontro con questo, Putin. Su questo, Oscar, effettivamente una svolta c'è stata, insomma, il Trump vicino. Io non condivido questa specie di tipizzazione di Putin come l'immobile, tra virgolette, pressoché, cioè, Putin è un regime che utilizza la sua, per mascherare la sua debolezza pazzesca economica, utilizza tutte le pressioni che ha. La colpa dell'America è di avergli regalato la possibilità di avere un ruolo in Medio Oriente che non aveva ai tempi dell'Unione Sovietica, la Russia. Quindi il bilancio degli errori e delle cose sta da tutte e due le parti. Quindi io non ti seguo quando sì, dai questa però interpretazione del fatto che in parole povere l'Europa ha un punto di riferimento e l'America invece gioca un'altra partita. Io penso che poi la libertà, la democrazia, la stabilità abbiano anche una via di mezzo rispetto a queste cose. Però detto tutto questo, vedremo questo Trump dove ci porta. Non abbiamo gli strumenti per capirlo, mentre hai ragione mille volte a dire che gli strumenti per capire Putin e le strade che segue, le vie che preferisce, quelli li abbiamo, perché abbiamo visto come negli anni che tipo di posizione segue. È una persona realista, capace di sedersi quando conviene, e effettivamente è stato deluso dagli Stati Uniti e da Obama. E adesso però vedremo, perché a me sembra che in realtà l'Europa, come sempre, non sappia dove andare di suo. Ah, questo sì. Sentiamo due ascoltatori, poi torniamo anche alla professoressa Ventura. Stefano da Roma, buongiorno Stefano. È caduta. Mirko da Milano, buongiorno Mirko. Buongiorno a voi. Innanzitutto volevo tranquillizzare tutti quelli che ascoltano la radio: non ci sarà una terza guerra mondiale. Oh, questo okay. Ci auguriamo. Sono tutti giochi studiati nei tempi, organizzati per bene, per dimostrare all'unico problema vero, reale, che sta crescendo negli ultimi 10 anni, la Corea del Nord. Io ti dimostro che in 2 secondi decido di attaccare, solo per delle immagini, che secondo me non sono neanche veritiere, la Siria, e ti dimostro con 60 missili, che poi c'ha ragione Giannino, dove sono andati i 60 missili lo sa solo lui, ok? Per dimostrare alla Corea del Nord che non puoi scherzare, devi stare tranquillo. Cioè, una dimostrazione di forza, anche il fatto che adesso stiamo mandando una dimostrazione di forza, che in quel caso parla alla Cina, non parla, perché lì è la Cina accusata di dire quelli dovevate tenerli buoni voi. Ricordiamo che l'ordine di lanciare i missili è avvenuto mentre Trump era a cena con il presidente cinese, con Xi Jinping, e quindi c'è anche questo simbolo, cioè sono a cena con il leader cinese, partita. Ma un'ora fa lui non lo sa, ho dato l'ordine di colpire in Siria. Però insomma, Sofia Ventura, adesso gli scenari della terza guerra mondiale li abbiamo evocati, lasciamoli forse da parte. Ci si chiede, lo chiede Oscar, ce lo chiediamo tanto, l'Europa che cosa fa? L'Europa è un Moloch in questo momento un po' informe, o no? Non so, lei lo vede come un corpo granitico che si muove verso una qualche direzione precisa? Ma ti dovrei essere matta a vederlo così. era un filino retorica la domanda, mi rendo conto. Ma l'Europa non esiste. Cioè, l'Europa esiste nel senso che esiste una cultura europea, esistono dei cittadini europei, no? Penso che comunque una fascia delle popolazioni dei vari paesi si senta europea, quindi probabilmente un sentimento esiste nonostante tutto. Forse tra i più giovani, soprattutto tra i più giovani. Sì, forse tra i più giovani, ma forse anche tra noi meno giovani, insomma, quando ci riflettiamo siamo tutti consapevoli di una storia che ci ha portato in, e quando usciamo dai nostri confini siamo più consapevoli di quella che sta diventando, Sofia, non so se sei d'accordo, una promessa non mantenuta, più che altro, tra l'altro. Sì, assolutamente una promessa non mantenuta, però di una comunità che esiste. Il problema è che a questa comunità non sono state date istituzioni all'altezza e diciamo anche classi dirigenti all'altezza. Questo poi è il grande problema, perché alla fine l'Europa, da un punto di vista istituzionale, cioè di Unione Europea, è diventata essenzialmente un'Europa intergovernativa. Purtroppo lì forse c'è anche un errore di valutazione dei padri fondatori, che appunto pensavano che attraverso progressivi accordi economici alla fine sarebbe scaturito anche, diciamo, un legame politico. Quel legame politico è rimasto debolissimo. Oggi abbiamo soprattutto un'Europa intergovernativa con dei leader di governo molto deboli, assolutamente non all'altezza, forse appunto ce lo ripetiamo sempre, però l'unico leader o che assomiglia a un leader in Europa è Angela Merkel, e non sappiamo nemmeno se rimarrà a lungo cancelliera, e quindi l'Europa anche nel contesto internazionale non va ovviamente da nessuna parte, però è proprio qui che si vede la sua debolezza tragica, direi tragica, perché questo da un lato ci rende sempre più marginali nel contesto mondiale, ormai non contiamo più nulla, ma ci rende anche molto, molto fragili, e questo ormai lo stiamo vedendo ovunque. No, ma è chiaro, non so se su questo, ma abbiamo un minuto, Marcello Foa è d'accordo, cioè questa debolezza dell'Europa e soprattutto dove ci porta, ci mette un po' in balia degli eventi o no? Ma più che debolezza, l'Europa sui grandi temi di politica estera segue sempre gli Stati Uniti. Per cui anche in questo caso ha imposto le sanzioni alla Russia e anche la politica in Siria, alla fine l'Europa si è allineata subito. Vediamo le reazioni dei governi europei al bombardamento dell'altro giorno, non c'è nemmeno la volontà di avere una politica estera propria e la volontà di difendere i propri interessi, questo mi sembra evidente. Allora, caro Oscar, noi nel ringraziare Marcello Foa, ricordiamo, direttore del gruppo editoriale svizzero che comprende anche il Corriere del Ticino, tra gli altri, e Sofia Ventura che insegna scienze della politica a Bologna. Che dire, oggi abbiamo dato uno scenario, insomma, delle chiavi di lettura su qualcosa che ci interessa un po' di più, magari delle primarie. Speriamo di non dover dare altre tragiche notizie, purtroppo sì. Bisogna sapere che nel nostro mestiere di solito quando si allineano così gli astri poi alla fine avvengono tempeste magnetiche, questo è poco ma è sicuro. Speriamo di no. Tanto domani arriva il DEF e la manovrina, la manovrina. Staremo a vedere. Per fortuna non c'è la tassa sulla Coca-Cola, anche se io non la bevo, è durata 24 ore domenica nel fine settimana, te la sei persa mentre pensavi alla partita. Perché la Coca-Cola? Perché la stavano istituendo sulle bevande gasate, col finetico, sai, come sulle sigarette, poi il finetico dello Stato è naturalmente più ne consumi meglio è per me, quindi il finetico delle tasse. Coca-Cola ma anche la Sprite. La Sprite, qualunque sostanza gasata, però il ministro Martina è sorto, dopo che lo stavano già... Vedremo domani. Intanto una buona giornata. Ciao. Beh.